известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Are you prepared to take the oath, Senator? I am. I, Barack Hussein Obama, I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute the office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Che Dio mi aiuti e anche i molteplici, multipli inciampi del giuramento di Barack Obama ieri, ormai è già storia, no? Gli operai già smontano le transenne a Pennsylvania Avenue, gli impianti voce dei grandi balli della notte sono già tornati sui camion, i Bush sono in Texas, Ted Kennedy per fortuna sta meglio dopo lo spavento e lo strapazzo di ieri e Barack Obama è appena arrivato a messa insieme ai suoi più stretti collaboratori in procinto di cominciare il suo primo giorno al nuovo posto di lavoro, ma oggi vogliamo per cominciare fare un passo indietro al discorso che tutti attendevano. My fellow citizens, I stand here today. Concittadini, oggi sono qui di fronte a voi con umiltà, di fronte all'incarico, grato per la fiducia che avete accordato, memore dei sacrifici sostenuti dai nostri antenati. I thank President Bush for his service to our nation. Ringrazio il Presidente Bush per il suo servizio alla nostra nazione, come anche per la sua generosità e cooperazione dimostrata durante questa transizione. 44 Americans have now taken. Sono 44 gli americani che hanno giurato come presidenti. Le parole sono state pronunciate nel corso di maree di prosperità, ma in acque tranquille anche di pace. Oppure il giuramento è stato pronunciato sotto cieli densi di nuvole, tempestosi. In questi momenti l'America va avanti non semplicemente per la visione di coloro che ricoprono questo alto ufficio, ma perché noi tutti, il popolo, siamo rimasti fedeli agli ideali dei nostri antenati, alla verità dei nostri documenti fondanti. Così è stato, così deve essere con questa generazione di americani. So it must be with this generation of Americans. That we are in the midst of crisis is now well understood. Che siamo in mezzo a una crisi è chiaro. La nostra nazione è in guerra contro una rete di vasta portata fatta di violenza e odio. La nostra economia è duramente indebolita per colpa dell'avidità, della irresponsabilità di certi, ma anche per il fallimento collettivo nel compiere alcune scelte difficili, nel preparare la nazione a un tempo nuovo. Tante case sono andate perdute, posti di lavoro tagliate, commerci finiti, la nostra sanità costa troppo, le nostre scuole trascurano troppi e ogni giorno si aggiunge una nuova prova al fatto che i modi in cui usiamo l'energia rafforzino i nostri avversari e minaccino il nostro pianeta. Questi sono indicatori di crisi, soggetto di dati, di statistiche, meno misurabile ma non meno profondo è anche l'inaridirsi della fiducia nella nostra terra, la fastidiosa paura che il declino dell'America sia inevitabile, che la prossima generazione debba ridurre le sue aspirazioni. Io vi dico che le sfide che affrontiamo sono reali, sono serie e sono tante. Non saranno vinte facilmente o in breve, ma si sappia, questo, America, saranno vinte. In questo giorno ci riuniamo perché abbiamo scelto la speranza sulla paura, l'unità degli scopi sul conflitto e la discordia. In questo giorno siamo qui a proclamare la fine delle lagnanze, delle false promesse, delle recriminazioni, dei dogmi. Troppo a lungo hanno strangolato la nostra politica. We remain a young nation. Siamo ancora una nazione giovane, ma come dice la scrittura, le scritture è venuto il tempo di mettere da parte le cose dei bambini, il tempo è quello di riaffermare il nostro spirito più forte, di scegliere la nostra storia migliore, di riportare su quel prezioso regalo, quella nobile idea passata di generazione in generazione, la promessa mandata dal cielo che tutti sono uguali, tutti sono liberi, tutti meritano una possibilità, un'opportunità per conseguire la propria felicità. In reaffirming the greatness of our nation. Riaffermando la grandezza della nostra nazione, noi capiamo che la grandezza stessa non va data per scontata, va guadagnata. Il nostro viaggio non è stato fatto di scorciatoie o di ribassi, non è una camminata per deboli di cuore, per chi preferisce riposare a lavorare o per chi cerca solo il piacere della ricchezza, della celebrità. È stato invece il percorso di chi corre dei rischi, di chi agisce comunque, di chi costruisce. Alcuni celebrati, ma spesso uomini e donne sconosciuti nella loro fatica, che ci hanno portato su in cima a un percorso lungo verso la prosperità, la libertà. They packed up their few worldly possessions and traveled across oceans in search of a new life. For us. Per noi hanno messo in valigia le poche cose che possedevano, hanno attraversato gli oceani alla ricerca di una nuova vita. Per noi hanno faticato nelle fabbriche, hanno colonizzato il West, hanno tollerato il morso della frusta, hanno arato il terreno. Per noi hanno combattuto e sono morti in posti come Concord e Gettysburg, in Normandia e a Keshan. Ancora questi uomini e queste donne hanno lottato, si sono sacrificati, hanno lavorato fino ad avere le mani sporche di sangue perché noi potessimo avere un futuro migliore. Vedevano l'America come più grande delle somme delle nostre ambizioni individuali, più grande di tutte le differenze di provenienza o di partigianeria. Questo è il viaggio che continuiamo oggi. Rimaniamo il paese più prosperoso, più potente della terra. I nostri operai non sono meno produttivi di quando la crisi è cominciata. Le nostre menti non sono meno fertili. I nostri beni non meno necessari della settimana scorsa, del mese scorso, dell'anno scorso. Le nostre capacità sono intatte. Ma il nostro tempo di attendere, di proteggere interessi meschini, di rimandare le decisioni, quel tempo è trascorso. Da oggi dobbiamo alzarci, metterci in piedi, cominciare il lavoro di rifare l'America. For everywhere we look, there is work to be done. Ovunque guardiamo c'è un lavoro da fare. Lo stato dell'economia richiede azioni coraggiose e rapide e noi agiremo non solo per creare nuovi lavori, ma per gettare fondamenta. Costruiremo strade, ponti, reti elettriche, linee digitali per sostenere il commercio e per connetterci. Ridaremo alla scienza il posto che le spetta, piegheremo le meraviglie della tecnologia per migliorare la sanità e abbassarne i costi. Metteremo le briglie al sole, ai venti, alla terra. Per rifornire le nostre automobili, per alimentare le nostre fabbriche, trasformeremo le nostre scuole e università per soddisfare le esigenze di una nuova era. Possiamo farlo e lo faremo. Now, there are some who question the scale of our ambitions. Ci sono alcuni che mettono in dubbio l'ampiezza di queste ambizioni, suggeriscono che il nostro sistema non può tollerare ormai piani troppo grandiosi, hanno la memoria corta. Hanno dimenticato quanto questo paese abbia già fatto, quanto uomini e donne liberi possono ottenere quando l'immaginazione si unisce a uno scopo comune e la necessità al coraggio. Quello che i cinici non capiscono è che il terreno si è mosso sotto di loro, che i diverbi politici vecchi ci hanno consumato così a lungo che non hanno più corso. La domanda che ci poniamo non è se il nostro governo sia troppo grande o piccolo, ma se funzioni, se aiuti le famiglie a trovare lavori con stipendi decenti, cure che possono permettersi, una buona pensione. Se la risposta è sì, vogliamo andare avanti. Se la risposta è no, i programmi saranno interrotti e quelli di noi che gestiscono i soldi pubblici saranno chiamati a renderne conto, a spendere bene, a riformare le cattive abitudini, a fare il lavoro alla luce del sole, perché solo allora potremo restaurare quella fiducia tra il popolo e il suo governo. Nor E neanche la domanda è se il mercato sia una forza benefica o malefica, il suo potere di generare ricchezza e aumentare la libertà non ha paragoni. Ma questa crisi ci ha ricordato che senza dei buoni occhi il mercato va fuori controllo e che un paese non può prosperare a lungo se favorisce solo i ricchi. Il successo della nostra economia non dipende solo dalle dimensioni del nostro prodotto interno lordo, ma dall'ampiezza della nostra prosperità, dalla nostra capacità di ampliare le opportunità, non per beneficenza, ma perché è la via più sicura verso il bene comune. Not out of charity, but because it is the surest route to our common good. Per quel che riguarda la nostra difesa comune, respingiamo come falsa la scelta tra la nostra sicurezza e i nostri ideali. I padri fondatori, di fronte a pericoli che non riusciamo neanche a immaginare, prepararono una carta che garantisse il rispetto della legge e i diritti dell'uomo. Una carta bagnata con il sangue versato da generazioni. Quegli ideali illuminano ancora il mondo e non vi rinunceremo. A tutte le persone e i governi che oggi ci guardano, dalle capitali più grandi a quelle più piccole, come il villaggio in cui nacque mio padre, dico: sappiate, l'America è amica di ogni nazione e di ogni uomo, donna e bambino che cerca un futuro di pace e dignità. Siamo di nuovo pronti a fare da guida. Ricordate che le generazioni passate sconfissero fascismo e comunismo non solo con i carri armati e i missili, ma con alleanze solide e convenzioni tenaci. Capirono che la nostra forza non basta a proteggerci, né ci dà il diritto di fare come vogliamo. Al contrario, seppero che il potere cresce quando se ne fa uso prudente, che la sicurezza promana dal fatto che la causa sia giusta, dalla forza del nostro esempio, dalla qualità dell'umiltà e della moderazione. Noi siamo i custodi di questa eredità. Guidati ancora una volta da questi principi, possiamo affrontare nuove minacce che richiedono sforzi ancora più grandi e ancora maggiore cooperazione e comprensione tra le nazioni. Inizieremo a lasciare responsabilmente l'Iraq al suo popolo, a forgiare una pace pagata a caro prezzo in Afghanistan. Insieme a vecchi amici e a ex nemici, lavoreremo senza sosta per diminuire la minaccia nucleare e allontanare lo spettro di un pianeta troppo caldo. Non chiederemo scusa per la nostra maniera di vivere, non esiteremo a difenderla e a coloro che cercheranno di ottenere scopi attraverso il terrore e il massacro di innocenti, diciamo che il nostro spirito è più forte, non può essere spezzato, non riuscirete a sopravviverci, vi sconfiggeremo. For we know that our patchwork heritage is a strength. Sappiamo che il nostro multiforme retaggio è una forza, non certo una debolezza. Siamo un paese di cristiani, musulmani, ebrei, indù e di non credenti, scolpiti da ogni lingua e cultura, provenienti da ogni angolo della terra. E dal momento che abbiamo provato l'amaro calice della guerra civile e della segregazione razziale, emergendone più forti e più uniti, non possiamo che credere che gli odi di lunga data un giorno scompariranno, i confini delle tribù si dissolveranno, che mentre il mondo diventa più piccolo, la nostra comune umanità dovrà venire alla luce e che l'America dovrà svolgere un suo ruolo nell'accogliere una nuova era di pace. To the Muslim world, we seek a new way forward. Al mondo islamico diciamo di voler cercare una nuova via di progresso, basata sull'interesse comune e il reciproco rispetto. A quei dirigenti nel mondo che cercano di seminare discordia o di scaricare sull'Occidente la colpa dei mali delle loro società, diciamo: sappiate che il vostro popolo vi giudicherà in base a ciò che siete in grado di costruire, non di distruggere. A coloro che si aggrappano al potere grazie alla corruzione, all'inganno, alla repressione, diciamo: siete dalla parte sbagliata della storia. Siamo disposti a tendervi la mano se sarete disposti ad aprire il vostro pugno. Ai paesi poveri diciamo di volerci impegnare con voi per far rendere le vostre fattorie, per far scorrere acqua pulita, nutrire i corpi, le menti affamate, e a quei paesi che come noi hanno la fortuna di godere di una buona abbondanza, diciamo che non possiamo più permetterci di essere indifferenti verso la sofferenza altrui, né possiamo consumare le risorse del pianeta senza pensare alle conseguenze, perché il mondo è cambiato e noi dobbiamo cambiare insieme al mondo. As we consider the road that unfolds before us, we remember with humble gratitude those brave Americans who, volgendo lo sguardo alla strada avanti a noi, ricordiamo con gratitudine i coraggiosi americani che oggi pattugliano deserti e montagne lontane, hanno qualcosa da dirci, così come il sussurro che arriva dagli anni di eroi caduti che riposano ad Arlington. Rendiamo loro onore non solo perché sono custodi della nostra libertà, ma perché rappresentano lo spirito di servizio, la volontà di trovare un significato in qualcosa che è più grande di loro. Eppure in questo momento, un momento che segna una generazione, è questo spirito che deve animarci tutti. It is precisely this spirit that must inhabit us all. For as much as government can do and must do. Perché per quanto il governo debba e possa fare, alla fine sono la fede e la determinazione del popolo americano, ciò su cui il paese appoggia, e la bontà di chi accoglie uno straniero quando le dighe si spezzano, l'altruismo degli operai che preferiscono lavorare meno che vedere un amico perdere il lavoro a guidarci nelle nostre ore oscure. È il coraggio del pompiere che affronta una scala in mezzo al fumo, ma anche la prontezza di un genitore a curare un bambino che alla fine decidono il nostro destino. Le sfide possono essere nuove, gli strumenti con cui le affrontiamo possono essere nuovi, ma i valori da cui dipende il successo, il lavoro duro, l'onestà, il coraggio e il fair play, la tolleranza, la curiosità, la lealtà e il patriottismo sono cose antiche. Sono cose vere, sono state la quieta forza del progresso della nostra storia. E quello che serve è un ritorno a queste verità. Quello che ci è richiesto adesso è una nuova era di responsabilità, un riconoscimento da parte di ogni americano che dobbiamo avere doveri verso noi stessi, verso la nazione, il mondo, doveri che non accettiamo a malincuore ma afferriamo con gioia, fermi nella nozione che non c'è nulla di più soddisfacente per lo spirito, di più caratteristico nella nostra anima, che dare tutto a un compito difficile. So defining of our character, then giving our all to a difficult task. This is the price and the promise of citizenship. Questo è il prezzo e la promessa della cittadinanza americana. Questa è la fonte della nostra fiducia, la nozione che Dio ci chiama a forgiarci in un destino incerto. Questo è il significato della nostra libertà, del credo, il motivo per cui uomini e donne e bambini di ogni razza, di ogni fede, possono unirsi in celebrazione attraverso questo splendido viale, e per cui un uomo, il cui padre 60 anni fa avrebbe potuto non essere servito in un ristorante, oggi può starvi davanti a pronunciare questo giuramento sacro. Segniamo questo giorno col ricordo di chi siamo, di quanta strada abbiamo fatto. Nell'anno della nascita dell'America, nel più freddo dei mesi, un drappello di patrioti si affollava vicino a fuochi morenti sulle rive di un fiume gelato. La capitale era abbandonata, il nemico avanzava, la neve era macchiata di sangue. Nel momento in cui la nostra rivoluzione più era in dubbio, il padre della nostra nazione ordinò che queste parole fossero lette al popolo. The father of our nation ordered these words be read to the people. Let it be told to future. Che si dica al mondo futuro che nel profondo dell'inverno, quando nulla tranne la speranza e il coraggio potevano sopravvivere, che la città e il paese, allarmati di fronte a un comune pericolo, vennero avanti a incontrarlo. America. America, di fronte ai nostri comuni pericoli, in questo inverno delle nostre fatiche, ricordiamoci queste parole senza tempo. Con speranza e coraggio affrontiamo una volta ancora le correnti gelide, sopportiamo le tempeste, che i figli dei nostri figli possano dire che quando fummo messi alla prova non ci tirammo indietro, né inciampammo, e con gli occhi fissi sull'orizzonte, la grazia di Dio con noi, portammo avanti questo grande dono di libertà e lo consegniamo intatto alle generazioni future. We carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to future generations. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Eh sì, sì, noi abbiamo adeguato i nostri spottini, i nostri break, i nostri titoli, è cambiato qualcosa. Abbiamo anche pensato di così rimasticare, come abbiamo fatto nella prima parte della trasmissione di oggi, il discorso di Obama di ieri, per così un po' più a freddo ragionarci forse sopra e assaporarne meglio la temperatura, i passaggi. Un parere personale, per quel che conta, non il discorso memorabile che il mondo attendeva, forse perché in assenza di un oggetto preciso, le cose migliori, secondo me Obama l'ha sempre dette sotto pressione, perché doveva rispondere a degli attacchi, a delle accuse, a delle questioni, prendere posizione. Qui doveva creare la piattaforma per la ripartenza, ma la piattaforma per la ripartenza è il suo successo, è la sua campagna elettorale. Adesso è finito il tempo della teoria, della forma, della celebrazione, comincia il tempo dell'azione e del lavoro. In un certo senso questo discorso era il ponte, no, tra una fase e l'altra. Vi dico qualche commento da grandi autori di discorsi presidenziali. William Safire, l'autore oltre che un grande editorialista del New York Times, autore dei discorsi di Nixon, dice: è stato un discorso solido, rispettabile, incoraggiante, piacevolmente corto e ben detto, ma forse non va messo in quella compagnia di Lincoln, Delano Roosevelt e Kennedy, perché è destinato alla immortalità, come ci avevano convinto che sarebbe stato. E ancora William Gavin, che è lo speechwriter, è stato anche lui speechwriter di Nixon, dice: non ho trovato nel discorso di Barack Obama quel passaggio di splendida, assoluta eloquenza, ma questo non significa per forza che sia un difetto. E ancora Jeff Schissel, che era stato l'autore dei discorsi di Bill Clinton, dice: è stato un discorso severo, muscolare, duro, che non ha risparmiato niente, soprattutto all'amministrazione uscente. Gordon Stewart, speechwriter di Jimmy Carter, dice oggi il nostro nuovo presidente ha fatto un buon discorso, era difficile comunque pensare che ne potesse fare uno cattivo, anche se le opportunità per inciampare non gli mancheranno. Allora, Emiliano, c'è già una ricca, vasta aneddotica attorno al discorso, vero? Beh, intanto possiamo segnalare alcune reazioni in giro per il mondo. Esatto. Direi che la più singolare viene da Amman, capitale della Giordania, dove un centinaio di persone, seguaci dei partiti d'opposizione, si sono riuniti nella piazza, nella sede centrale, insomma, del loro partito, e più che salutare l'arrivo di Obama, hanno voluto dare all'addio, almeno come presidente degli Stati Uniti, a George W. Bush, e si sono prodotti in un lancio collettivo di scarpe contro immagini che raffiguravano Bush, ormai una coreografia di scarpe diventato culto soprattutto nel mondo, certo, medio orientale, con il giornalista che qualche tempo fa, nell'ultimo viaggio in Iraq di Bush, gli ha proprio scagliato le due scarpe addosso, brillantemente schivate da Bush, evidentemente giocatore di baseball ancora in grande forma. Mentre l'Iraq dà così la notizia in chiaroscuro dell'arrivo di Obama, da un lato c'è la stampa irachena che accoglie con speranza l'arrivo di Barack alla presidenza degli Stati Uniti, però dall'altro ci sono le parole di un famoso poeta iracheno, Rahim Youssef, secondo il quale invece l'uscita di Bush e l'arrivo di Obama non risolverà la crisi economica, quindi nota pessimistica da parte del poeta Rahim Youssef. Un po' tutti i paesi arabi stanno dicendo vabbè, adesso fateci vedere qualcosa. Adesso è notizia di pochi minuti fa questa telefonata tra Abu Mazen e Obama. Sicuramente, insomma, la Palestina e il Medio Oriente saranno al centro dei pensieri e delle azioni di Obama fin dall'inizio del suo operato. Va bene, adesso stiamo per passare alla nuova iniziativa, nuovo spazio, nuova idea del nostro programma che si chiama Express Yourself, ovvero che cosa dite voi, la vostra partecipazione interattiva al programma. Stamattina vi abbiamo chiesto di, se avevate sentito, letto, visto il discorso, di prendere posizione, ma prima di arrivarci, so che anche è ben lontano da qui. Esatto, intanto a Pechino l'hanno sentito. La Cina rimane sintonizzata e Obama è incappato in un piccolo inconveniente. Sentiamo. Allora, se uno lo vede capisce forse meglio, ma c'è un momento di panico in studio perché la televisione cinese ha mandato in diretta il discorso di Obama, credo che questo sia già il segno dei tempi. C'era la traduzione simultanea che però si è incagliata quando Obama ha ricordato le generazioni passate che hanno sconfitto il nazismo e il comunismo. Alla parola comunismo, apriti cielo, c'è stato il gelo in studio. Beep. La giornalista ha avuto un attimo di esitazione, poi ha praticamente cambiato profilo, si è girata di tre quarti e ha dato la linea ad altri servizi, abbassando così la voce. Si è limata le unghie. Di Obama. Tra l'altro accolgo l'occasione per ringraziare Gianluigi Negro, che è un nostro attivissimo amico, sempre proiettato, sintonizzato sulla Cina, ha messo tutti i link e anche il video in questione proprio sul sito Facebook Jefferson 2 Express Yourself, quindi chi vuole vedere e capire meglio che cosa è successo in diretta TV in Cina può sintonizzarsi sulla nostra pagina di Facebook. Benissimo, arriva il momento dei vostri interventi. Express Yourself. Allora, avete visto, se siete già abitué dei nostri due siti Facebook, che vi ricordo si chiamano Redazione Jefferson 2, 2 scritto in parola, che è quello che serve per parlare con noi, e l'altro che si chiama invece Jefferson 2 Radio Express 24 yourself. Express Yourself, che è la bacheca di intervento e dibattito che la mattina vi scrive sulle vostre caselline, vi propone temi di intervento e voi rispondete numerosi. Vi abbiamo chiesto un parere sul discorso inaugurale. Lucio dice: discorso con un uso della retorica molto limitato, ha parlato di cose concrete e più che promettere ha chiesto agli americani non solo sacrifici, responsabilità ed onestà. Andrea dice: bello, emozionante, molto americano, l'impressione di forza, coraggio, tenacia, allo stesso tempo equilibrio nel cambiamento, hanno rispettato le attese. Mauro: non so perché, ma il pragmatissimo discorso di Obama e i suoi riferimenti alla storia e ai valori americani mi hanno fatto venire in mente una frase dell'inglesissimo Signore degli Anelli: radici profonde non gelano. Davide: sicuramente un Obama differente da quello delle promesse e dei sogni elettorali, un discorso molto serio, preciso, nel quale ha espresso chiaramente che sarà un periodo molto grave. Che ci vuoi mettere, Milano? Eh beh, qui ci sono gli sms invece in diretta al 349-238-6666 che sono molto caldi, appassionati, qualcuno anche critico. Per esempio c'è Giancarlo D'Avarese che dice: bene sì, lo confesso, quando ha cantato Aretha mi sono commosso. Tu, Stefano, hai pianto con Aretha? Io ero ipnotizzato dal fiocco. Il cappello sì, non era dei migliori sinceramente. Poi più pragmatico Francesco dice: è finita la pubblicità, era ora, mi auguro che gli spot di Obama comincino ad applicarsi al più presto, basta chiacchiere. E poi due domande, Stefano, che ti giro rapidamente. La prima è di Dino che dice: ma Obama con le lobby è pro o contro? Questa è la prima domanda. Se Obama dice, è pro o contro, si può governare? La domanda è: si può governare in America senza le lobby? Per adesso sicuramente no. Obama fa tante cose, non credo che per ora moltiplichi pani pesce, non credo sciolga le lobby arrivando. Quindi per i miracoli c'è ancora tempo. Per i miracoli dobbiamo aspettare. La seconda domanda viene da Jacopo da Vicenza che dice: mi chiedo, la satira americana potrà prendere in giro Obama senza passare per razzista? Credo pazzamente, credo che Saturday Night Live del prossimo sabato ci aspetta un bel discorso. Io richiamerei McCain a fare la satira di Obama, che era stato straordinario al suo tempo. E la Sempreverde sarà peggio. O la Sosia. Express Yourself ancora, Gianfranco: ritengo inutile leggerlo, scrive riguardo al discorso. Non credo che il discorso di Obama abbia affrontato la dimensione della politica sangue e dell'onorevole Rino Formica, l'affermazione in questione. È indubbio però che la sua figura susciti aspettative ed emozioni, ed è giusto così. Doriano: nemmeno l'apertura dei Giochi Olimpici di Pechino ha avuto tale esposizione mediatica. Beh, insomma, solo che a distanza di 4-5 mesi non ce li ricordiamo più. Speriamo non tocchi così anche le nostre speranze su Obama. Che vuoi dire? Volevi... No, questo parallelo con Pechino, insomma, le Olimpiadi sono ogni 4 anni, un presidente nero è ogni 200-300 anni forse, comunque è la prima volta. Poi però siamo a uno. Siamo a uno, esatto. Giulio, un buon discorso su valori generali di uguaglianza nella diversità e di rispetto dell'altro, dove la terra americana è il punto d'unione. L'unico appunto che mi sento di fare è sul passaggio dell'uomo di colore che 60 anni fa non sarebbe stato servito in un bar. Potevano esserci altri esempi per dimostrare la maturità e la crescita degli Stati Uniti. Riccardo: sono letteralmente volato nel mezzo del traffico romano per vedere in diretta su CNN il discorso e assistere a questo defining moment in history sullo stesso divano su cui ho vissuto la notte del 4 novembre scorso. Divani che contano nel nostro contemporaneo. E incidenti stradali evitati a questo punto. Luana: a me non piace la retorica americana, ma non si possono negare i tratti innovativi del discorso di Obama, salvo soprattutto mi hanno colpito due cose: l'asserita compatibilità tra sicurezza e ideali e la consapevolezza di questo momento storico come identificativo di un'intera generazione. Marco: wait and see, per dirlo con le parole qualcun altro, un eccesso di aspettative generalmente genera delusione, parole di Putin. Cecilia: molto retorico, molto americano, ma forse anche per questo molto entusiasmante. I messaggi sono tanti altri, li trovate comunque online se avete la curiosità di sapere voi stessi cosa pensate in questo momento in cui siamo tutti un po' nervosi, un po' scettici, sentiamo che a noi ci è mancato qualcosa, che dall'altra parte dell'oceano hanno avuto qualcosa in più. Beati loro. When you have big dreams, there's really nothing that can get in your way. I think we see that today. I just want you close, where you can stay forever. You can be sure that it will only get better. You and me together through the days and nights. I don't worry, 'cause everything's gonna be alright. People keep talking, they could say what they like, but all I know is everything's gonna be alright. And no one can get in the way of what I'm feeling. No one. When the rain is pouring down. say what they like, but all I know is hey, hey. Insomma, abbiamo verificato molti pareri difformi sul discorso di inaugurazione di Barack Obama. Mi sembra, ribadisco il concetto, mi sembra anche comunque un senso strisciante di mancanza, ribadito anche da molti discorsi, come dire, comunque dalle parti nostre emozioni di questo genere non è dato provarle, almeno con gli scenari attuali. Invece possiamo andare a chiedere proprio di persona quali emozioni, sebbene straniero, in terra straniera, insomma, ma anche molto americano d'adozione, si siano provate ieri a Mario Platero, che era lì a un palmo dai protagonisti di questa grande storia, sicuramente ha colto la grande atmosfera emotiva della giornata. Mario, buongiorno. Buongiorno, sì, buongiorno. Guarda, sentivo che accennavi al fatto che ci sono state reazioni contrastanti sul discorso. Sì. Il discorso, in effetti, per una serie di questioni anche tecniche, devo dire, perché nel momento in cui parlava la sua voce arrivava con qualche secondo di ritardo al grande pubblico, quindi mm-hmm. Il grande boato collettivo, la grande emozione c'è stata solo qualche volta durante il discorso, non più volte forse come qualcuno si aspettava, ma credo che in gran parte possa anche essere dipeso da quello e dal fatto che Obama ha deciso di fare un discorso sobrio, pieno di contenuti, denso di concetti e quindi non un discorso di quelli che sa fare lui quando si è trovato in campagna elettorale, quando è riuscito a mobilitare la folla, ecco, non un discorso populista, a parte qualche passaggio. Ecco, detto questo, rileggendolo questo discorso, io credo che lo si troverà molto intenso, molto interessante e con dei messaggi molto chiari che vanno a chiarire una serie di cose. Mi ha colpito, per esempio, il riferimento, se vuoi, al modello americano. Gli americani hanno un loro modo di vivere, ha detto Obama, ebbene questo nostro modo di vivere non lo cambieremo, lo difenderemo e non faremo sì che altri tendano a cambiarlo. Ecco, questa è una frase che può prestarsi a considerazioni molto ampie, perché non riguarda soltanto la minaccia del terrorismo, coloro che cercano di indebolire la democrazia americana con attacchi e con minacce, ma credo che in qualche modo possa riguardare anche gli interlocutori europei, che spesso criticano gli eccessi dell'americano medio. Forse certo, Obama in qualche modo ha voluto anche indirizzare quello, vedremo, perché ovviamente non ci sono messaggi specifici. Per ciò che riguarda l'atmosfera, come vi dicevo ieri, ecco, no, ma aspetta, situazione... Mario, voglio chiederti una cosa meno ufficiale, ma che vista da qua ti garantisco ha fatto un effetto straordinario, cioè il dopo ufficialità, no? Un po' la passeggiata con quegli occhi atterriti dei membri dei servizi di sicurezza, e poi comunque Barack e Michelle in pista a ballare non solo i tradizionali valzer, ma come si dice, gli svelti, i balli quelli dei giovani, insomma, un'atmosfera bella diversa da quella che si conosce a Washington, no? Beh, direi che Washington in questi 3-4 giorni ha vissuto il suo rinascimento, diciamo un rinascimento quadriennale, nel senso che ogni inaugurazione ha poi un gran numero di balli, un gran numero di occasioni, un gran numero di mondanità, quindi ogni 4 anni si ripete bene o male questa girandola di feste, e ti dirò, non soltanto quelle formali ufficiali, ma anche quelle private. Mi è capitato di andare in alcune case di washingtoniani che contano, e dove poi c'erano personaggi che magari non vanno ai balli, ma che ovviamente poi hanno molto da dire, sia certo, per il futuro dell'amministrazione che ovviamente per il paese. Ma l'atmosfera decisamente questa volta era diversa rispetto al passato. 4 anni fa, quando ci fu il secondo mandato Bush, ci sono state le feste, ma devo dire erano feste un po' più spente di quelle che abbiamo visto in questi giorni. Qui c'è uno straordinario entusiasmo, grande motivazione, e devo dire anche questo grande senso di orgoglio dei neri, degli afroamericani che che sentono di essere finalmente arrivati laddove sarebbe sembrato possibile per loro arrivare. Questo ha contribuito molto ad aumentare l'energia, a dare questo senso di passione, di partecipazione, e grandi risate, grande entusiasmo. Cosa che colpisce nel momento in cui immaginiamo, sappiamo, leggiamo sui giornali che poi l'America è in crisi, che ieri la borsa ha perso il 4%, che le banche sono sempre più in difficoltà, e quindi c'è anche questa dicotomia tra, se vuoi, quello che leggiamo, quello che sentiamo, quello che è il malessere dell'economia, e quello che invece questa straordinaria voglia di vivere, di fare, di recuperare, di andare avanti, di ricostruire sotto la leadership di questo presidente, che poi alla fine ha lanciato proprio ieri questo messaggio, il messaggio di responsabilità, di fare anni difficili, però l'America l'ha sempre fatto, l'ha fatto dall'inizio della sua storia, continuerà a farlo, e questa generazione, ha detto, è chiamata appunto alle sue responsabilità per il futuro. Questo miscuglio di missione, di valore, di responsabilità, di gioia, di entusiasmo, di energia, beh, devo dire, è stato davvero, davvero unico. Capita, credo, una volta ogni tanto, forse è capitato certo, quando arrivò Kennedy. Le promesse ci sono, vediamo poi quanto Obama riuscirà a mantenerle. Ecco, oggi è già il giorno dopo, telegraficamente so che sei nei dintorni dell'udienza di conferma di Gaetner, tra l'altro dove le cose non sono completamente pianeggianti, diciamo così. Hai qualche informazione? Che aria tira? Che cosa succede? Il giorno dopo, oggi intanto Obama ha cominciato il suo lavoro normale, ma fino a poco fa era alla cattedrale, dove c'è stata la messa, la cattedrale di Washington, questa straordinaria, enorme cattedrale, dove c'è stata la celebrazione, dove Obama diventa fisicamente washingtoniano, e dove una gran quantità di persone si sono recate appunto per partecipare a questa cerimonia religiosa. Nel contempo, appunto, al Senato, io sono a Dirksen Building adesso, del Senato, uno dei palazzi del Senato dove hanno sede i senatori, dove c'è il comitato finanza del Senato, e Geithner sta parlando, l'ho visto poco fa, hanno parlato per lui il senatore Schumer, ha parlato Volcker, lo hanno descritto come un uomo di straordinaria capacità, l'uomo di cui ha bisogno l'America in questo momento, e dunque non certamente è la persona che può essere non confermata per via di questi piccoli errori fiscali. Ricordiamolo, Geithner non pagò le tasse su certi contributi che ebbe dal Fondo Monetario Internazionale, era più un tecnicismo che altro, un errore, ci fu un audit del fisco, il fisco riconobbe questo, lui pagò quando il fisco gli disse di pagare, e quindi in qualche modo rimise le cose a posto, ma poi non pagò due anni precedenti perché erano scaduti i limiti, li pagò solo dopo la nomination di Obama. Ecco, questi piccoli tecnicismi in America ovviamente sono sfruttati politicamente, nel momento in cui tu vai al Tesoro, che ha responsabilità per l'IRS, l'Internal Revenue Service, il fisco americano, beh, che messaggio mandi se tu stesso poi hai cercato in qualche modo di tagliare l'angolo. Però sono veramente cose lui ha pagato, si è rimesso a posto, e credo che dall'umore che ho visto in sala di audizioni, credo che la conferma sarà inevitabile. Grazie a Mario Platero. Sotto c'è già la voce di Aretha Franklin, che ha accompagnato la inaugurazione ieri, che chiude la puntata di oggi di Jefferson Ming. Stefano Pistolini, Emiliano Enrico, in regia Roma Valerio Rocchetti, Emiliano Pietro Lacorte, e su Facebook la mail aspettiamo a ridarvela perché la stiamo modificando, su Facebook però ci trovate a redazione Jefferson 2 o a Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Appuntamento domani alle 4, la replica vi ricordo è alle 24, il podcast è 24 ore al giorno su Radio 24.